radiation, radiation. Eccoci qua, buonasera e bentornati a un nuovo mercoledì. Un nuovo mercoledì ancora all'insegna del metal, però questa volta con una puntata spin-off Metal Zone piena di ospiti, piena di novità. Voglio sempre ringraziare Young Re. Questa sera non ho passato un loro brano usuale, nostra sigla di Metal Zone, perché sto aspettando il loro nuovo album è il nuovo, loro nuovo video, e quindi voglio aspettare la nuova canzone assolutamente. Dicevo, ospiti, una puntata abbastanza complicata questa sera che mi ha voluto proporre Davide Pitt, che saluto e ringrazio per essere venuto qui. Sì, ciao Giovanni, ti ringrazio e ringrazio tutte le persone che in questo momento mi stanno scrivendo, ci stanno messaggiando, per questo è un onore per me stare qui, è veramente piacevole e niente, non, spero di non deludere nessuno con questa puntata, perché i Pink Floyd sono un argomento abbastanza delicato, chi li ama, chi li odia, chi non li ha capiti, un pochino come noi che in alcuni periodi li abbiamo capiti, in altri meno. Hanno caratterizzato un pochettino la nostra influenza musicale, tutto quello che abbiamo fatto e continuiamo un pochettino a fare nel tempo libero con la chitarra. E niente, speriamo di passare delle piacevoli ore insieme a voi. E vogliamo passare un po' di cronistoria musicale proprio dei Pink Floyd, proprio per approfondire questo discorso, perché ragazzi, stiamo parlando di un gruppo che ha fatto la storia della musica in toto proprio, perché partono nel 1967, quindi noi non esistiamo proprio. Ed è un gruppo musicale, ci tengo a precisare, rock britannico, quindi si formano assolutamente a Londra e vendono 250 milioni di dischi in una stima fatta nel 2008, quindi una band che vende veramente tantissimo, e 74 milioni di dischi venduti solo negli Stati Uniti d'America, quindi riescono anche a invadere una piazza che è veramente complicata come quella degli USA, influenzando veramente tantissimo gruppi come i Genesis, che poi saranno successivi a loro, gli Yes, come per esempio anche i Nine Inch Nails, che faranno di questo rock progressivo, che poi andrà a sfociare addirittura in quello che verrà definito art rock, quindi uno stile e una tecnica superiore e sopraffina, talmente tanto da essere definita arte. Quindi stiamo affrontando qualcosa di veramente delicato. Però cominciamo. Dicevo, si formano nel 1965, quando proprio Syd Barrett si unisce a un gruppo musicale di studenti in un'università di architettura in Inghilterra. Sostituisce un cantante di un gruppo che già si chiamava The T-Set. Questo gruppo poi verrà intercambiato da varie persone, da vari componenti, fino a che poi Syd Barrett, Roger Waters e poi ancora successivamente si aggiungerà David Gilmour e Wright formeranno quello che è il nucleo principale di quello che poi saranno i Pink Floyd. Il 5 agosto del 1967, dopo aver firmato un accordo importante con la EMI, comincia la loro avventura vera e propria e rilasciano questo album che apre un po' a quello che poi verrà definito lo space rock, quindi un rock abbastanza psichedelico, evocativo, che fa viaggiare abbastanza, anche se proprio con questa popolarità, bisogna dire, ecco, uno dei componenti della band comincia già ad avere delle grandi defiance, perché l'abuso di droghe, in particolare l'LSD, che all'epoca comunque sembra girasse veramente tantissimo, stiamo parlando del 1968, quindi è un'epoca. Quando mi è capitato di chiedere pure a mio padre, no, se mio padre, che invidio tantissimo per gli anni che ha vissuto, che mio padre è del 46, quindi nel 68 stava proprio nel fiorfiore della musica che cresceva, che si formava. Mio padre è proprio allo sconosciuto, all'oscuro di tutto quello che è successo in quegli anni. Quindi è un pochettino una cosa anomala questa qui, perché ti capita di invidiare qualcuno che intorno aveva tutto questo e di cui non sapeva assolutamente nulla. Ecco, i tempi cambiano, purtroppo non c'era internet, quindi non c'era la tecnologia e i modi per vedere di queste cose. Anche oggi c'è internet, però mio padre è comunque all'oscuro di tutto. E allora, quale migliore occasione per non ascoltarci due brani dal primo loro album, ossia The Piper at the Gates of Dawn, un titolo stupendo, ossia il pifferaio alle porte dell'alba, una cosa spettacolare. Allora, io ho il brividi praticamente, Davide. Dal Te Insieme, che era il gruppo prima dell'avvento di Syd Barrett, passiamo ai Pink Floyd, che hanno formato e continuano a formare ancora noi. Ci andiamo ad ascoltare Lucifer Sam, Scarecrow. Ancora un saluto da Amon e da Davide. Benvenuti nella Metal Zone. Benvenuti. Eccoci ancora on air dopo questa prima serie di canzoni che già ci stanno appagando tantissimo. Io sentivo i geni, sentivo tutto, io cominciavo a viaggiare insieme a Pink Floyd e continuiamo a seguire la loro cronistoria, perché succede che come dicevo prima, Syd Barrett è costretto ad abbandonare la band, proprio viene completamente isolato per i suoi evidenti problemi mentali. Infatti capitava di durante i live che dimenticasse quello che stava suonando, oppure scordasse le corde della chitarra volutamente senza un motivo plausibile. Davide, io non riesco a capire questi nel 68 cosa combinavano. Fatto sta che questa influenza, questa vena di pazzia la si vede nell'ultimo brano di un album, il loro album successivo nel 68, ossia A Saucer Full of Secrets. E il titolo sarà, noi ce la sentiamo dopo ovviamente, sì, Jug Band Blues, che è un altro brano famoso ed emblematico. Vorrei anche mettere, perché poi qua dopo questo album succede veramente di tutto, perché i Pink Floyd cambiano completamente direzione, ed è chiaramente il periodo, quello che va nel 68 al 79, con ovviamente delle produzioni prima, con dei brani insomma sempre dedicati a Barrett, cambiano completamente verso e si buttano sulla psichedelia. Come la vedi, secondo te, una scelta del genere dopo due album sostanzialmente che sono di rock, space rock, insomma abbastanza anonimi? Forse io penso che la scelta è stata sia voluta, ma si sono trovati costretti a fare questo, perché fare da una matrice prevalentemente blues si ritrovano poi a fare un po' di psichedelico, è abbastanza tosta come cosa. Poi c'è da dire pure che i pezzi venivano suonati saltuariamente un pochettino da Gilmore, poi da Waters, poi da Wright, che si dividevano i compiti sia da voce solista che di composizione. Diciamo che stavano erano un pochettino come un gregge senza pastore, quindi erano lì con questo bagaglio di musica dentro che si stava formando, però non riuscivano a trovare forse la loro ancora identità, la loro vera identità. Una identità che poi forse troveranno, perché sono notati e le loro canzoni entreranno a far parte anche di alcuni film, come per esempio il film More, oppure ancora successivamente altri tipi di film, tra cui Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni, che è un film storico, e ci sono addirittura tre brani nel quale loro contribuiscono e quindi compaiono anche nello stesso album. Una cosa fantastica, quindi si cominciano a vedere di che pasta sono fatte, e noi come fare a interpretarli? Dobbiamo andarli ad ascoltare per poi arrivare dopo. Ci andiamo ad ascoltare un paio di canzoni da A Saucer of Secrets, da More, da Umagum, quindi arriviamo fino al 69, per poi diciamo parlare un po' del progressive che li caratterizzerà fino all'album classico. Mi è appena arrivato un messaggio di mio padre, che ascoltando la trasmissione tramite l'iPad, quindi qui c'è lo zampino di mia madre, perché mio padre crede ancora che l'iPad sia un tagliere fatto di vetro, mi ha appena mandato un messaggio dicendomi che lui li ascoltava, però non sapeva che chi fossero, e quindi mi ha ringraziato per l'appunto e soprattutto per la figuraccia che gli ho fatto fare, che a cui sto ponendo rimedio in questo e momento. Poniamo rimedio, perché ci andiamo ad ascoltare e cominciamo con Jug Band Blues e proseguiamo fino al 1969. Ancora i Pink Floyd, ancora Metal Zone. E possiamo già parlare di musica sperimentale e quasi filo elettronica, e stiamo parlando sempre del 1969. Succede che svoltano completamente questa vena psichedelica e diventano proprio affermati nel rock progressive. Questo rock progressive, no, che adesso viene usato tantissimo, ormai si mette progressive ovunque, è un progressive che è proprio difficile ad ascoltarlo, è proprio complicato sentirlo proprio tutto questo album, perché proprio questo nuovo lavoro che insomma ha un po' di orchestrizzazione, c'ha tutto, cioè non si può definire una canzone come Atom Earth Mother. Anche perché già il nome dell'album, e quindi viene da una notizia di un giornale dove fu deciso poi all'ultimo minuto, perché loro in pratica presero ispirazione da un articolo del giornale, come dicevi tu, sì, che parlava di una donna con un pacemaker che era riuscita a partorire. Quindi nel 70. Quindi è una cosa assurda, però vera, essere di cui ricordiamo concreta. Pure una delle copertine, che è stata, sì, poi la copertina più famosa nella storia del rock, dove veniva ritratta questa mucca che pascolava in un prato. Infatti noi andiamo ad ascoltare da questo Atom Earth Mother, perché poi dopo chiaramente fanno altri album su questa scia, come per esempio Metal, e poi c'è l'esibizione del 1972 live in Pompei, e io Non c'ero, ahimè, non c'era nemmeno mio fratello, ahi lui. Mio padre c'era, ma credo che effettivamente... Però forse a Pompei un giro sarebbe fatto. No? Facciamo così, innanzitutto salutiamo tutti perché ci state, sto notando che ci state seguendo in tantissimi e quindi questa cosa mi sta un attimo spaventando, però voglio anche, voglio anche ringraziare Pasquale Annunziata che ci sta facendo un sacco di complimenti perché grazie, Pasquale, adora i Pink Floyd a quanto pare, abbiamo proprio beccato la persona giusta. E dovremmo pure mettere un attimo una parentesi su un rumore fuori campo che si è sentito mentre stavamo registrando, di cui qualcuno tipo Paola mi ha detto: ma quando vi fate i cicchetti fateveli prima, fateveli dopo, che si è sentito questo rumore di un bicchiere. Voglio precisare che un bicchiere, ma che noi usiamo semplicemente per ciccare. La fortuna di stare qui in radio è quella di poter fumare tranquillamente una sigaretta oppure un caffè, che adesso, dopo aver lanciato il prossimo pezzo che Giovanni vi presenterà, andrò a prendere qui giù, perché qui sembra che i bar siano tutti chiusi. Evitiamo Atom Verde Mate perché dura 23 minuti, forse ci metti un pochino di meno, spero, per farlo la trovi. Ci andiamo ad ascoltare Alan Psyched Breakfast da questo album meraviglioso, Atom Verde Mate, e poi ci andiamo ad ascoltare alcune canzoni da Meddle, da Relix, e poi dopo, ragazzi, rimanete con noi perché c'è la consacrazione del Prisma. Rimanete con Amon e Davide, rimanete nella Metal Zone. Restate con noi. Oh, we flakes. Oh, then scrambled egg, and, bacon, sausages, tomatoes, scrambled toast, egg, bacon, sausages, coffee, tomatoes, toast, marmalade. I like marmalade. Toast, marmalade. I like marmalade. Yes, porridge is nice. Any cereal, I like all cereal. Yes, porridge is nice. Oh, God. Any cereal, I like all cereal. Yes, porridge is nice. Oh, God. Any cereal, I like all cereal. Yes, porridge is nice. Oh, breakfast in Los Angeles. Microbiotic stuff. Microbiotic stuff. Microbiotic stuff. Gets ready for the gig. I'm driving on the radio to sleep. Oh, no. I got all the electrical stuff. I can't bother with that. So I feel like I don't want my back. I don't want my battery. I don't want my battery. I don't want my battery. Maybe one day it could be air. Thank you.

man in his old age are the deeds of a man in his prime. You shuffle in the gloom of the sick room and talk to yourself as you die. Life is a short, warm moment, and death is a long, cold rest. You get your chance to try in the twinkling of an eye, 80 years with luck or even less. So all aboard for the American tour, and maybe you'll make it to the top. Mind how you go, and I can tell you, cause I know you may find it hard to get off. Eccoci on air dopo esserci rifocillati grazie a Davide che ci ha fornito un bel kebab con le patate. Non ho trovato il caffè per strada, ho trovato la kebabberia aperta. Vabbè, un kebab è come un caffè, l'intenzione è la stessa, ma soprattutto ti ringrazio per la birra che questa sera per eccezione devo farlo, e quindi è una puntata storica come diceva lui, perché fra poco sto per passare uno degli album che veramente mi mettono i brividi ogni volta, anche solo se lo nomino. E volevo, prima di proseguire insomma con la storia, noi stavamo avendo una simpatica discussione, perché io sono più sul bluesman, tu sei più sugli assoli sentiti e passionali. Perché? Non che non mi piacciono gli assoli di Roger Waters, però gli assoli di Gilmore mettono più, creano più atmosfera. Quindi per quella che è la musicalità di Pink Floyd, li trovo più idonei, più da brividi, più da seratine così come la nostra, dove una birra e un kebab accompagnato da un assolo di Gilmore sono sicuramente più idonee che con gli assoli di Waters, no? Non posso, però insomma io sono più sul blues, mi piacciono di più quelle cose che vanno a spaccare il tempo e a portarti con loro per poi farti ritornare dentro. E quindi torniamo nella consacrazione del Prisma, un album uscito il 24 marzo del 1973. Ragazzi, The Dark Side of the Moon, un album da avere in vinile, in CD, come in cassetta, come volete voi, ma lo dovete avere assolutamente, originale nella vostra collezione. È un album che ha venduto 45 milioni di copie, ragazzi, 45 milioni di copie, terzo album più venduto di tutti i tempi. Rimane 14 anni nella classifica Billboard 200 e esce solo da questa classifica negli anni 80, c'è un quindi sono 17 anni in totale, però diciamo 14 anni di militanza in questa classifica, e si piazza alla numero 1 delle classifiche americane, mentre non supera, stranamente, non si sa perché, anche se inglesi non superano la posizione numero 2 delle liste delle classifiche britanniche. Cosa vogliamo dire di quest'album? Un album veramente introspettivo, perché analizza in ogni canzone un aspetto dell'umanità, in quanto per esempio parla della nascita dell'infanzia in Speak to Me e Breathe, in Time affronta il tema dell'invecchiamento, quindi un affronto alla morte, insomma, e con The Great Gig in the Sky esplora i pensieri religiosi e proprio quelli inerenti alla morte, in Money si prendono a gioco dell'avidità, insomma sono dei temi che secondo me sono sempre attuali, stiamo parlando del marzo 73. Sì, c'è da dire che fu suonato già in concerto nel lontano 1972, era un concept album che comunque proponeva una musica concettuale eterodossa, alla quale comunque si affiancavano dei testi dal profondo contenuto filosofico e a cui erano affiancate delle profonde riflessioni. È un album veramente che ha siglato, secondo me, il passaggio dei Pink Floyd veramente nella storia, non che prima non lo fossero, però sia per i numeri, come diceva prima Giovanni, che hanno siglato la loro consacrazione, il loro primato, il Prisma, no? Che dicevi, è uno dei simboli secondo me più conosciuti, oltre a quello della Apple, della Coca-Cola e quant'altro. Forse anche più della Coca-Cola, sì. Voglio dirlo adesso. Sicuramente. Forse sarà pure il simbolo più tatuato, perché io mi tatuerei molto più volentieri il Prisma che il simbolo della Apple, ma poi non so i gusti degli altri. Però un album che chiaramente fa così tanto successo che li mette in difficoltà, perché successivamente rilasciano un altro album che pure avrà un sacco di successo, sia Wish You Were Here, che chiaramente non riesce però a contrastare lo strapotere di quello che hanno fatto uscire prima, anche se Wish You Were Here viene pubblicato 2 anni dopo. Adesso loro veramente si trovano in una difficoltà enorme. Noi ci andiamo ad ascoltare, perché ne ho bisogno, non ce la faccio più. Ci andiamo ad ascoltare, io direi Money, da Dark Side of the Moon. Sì, ci andiamo a sentire un grande Shine You Crazy Diamond, pensando solo la prima, sì. Portano sempre bene, secondo me. E poi da Wish You Were Here ci andiamo a sentire l'omonima canzone con l'accendino acceso in mano. Quindi seguiteci ancora con i Pink Floyd, ancora con Metal Zone, con Amon e Davide. Thank you. I'm in a high-fidelity first-class traveling sector. rieccoci, perché prima di mettere il prossimo brano abbiamo deciso di parlare un attimo, perché Davide vuole dirci un paio di curiosità su questo brano che andremo a ascoltare, quello precedente. Ma credo che sono un pochino di notizie che comunque conoscano tutti, che sia Wish You Were Here come Shine On Your Crazy Diamond, differentemente però da quest'ultimo, Wish You Were Here è stata dedicata all'ex membro dei Pink Floyd, Syd Barrett, che come abbiamo detto all'inizio della trasmissione è stato proprio lui che ha trasformato il nome del gruppo da un tè insieme a The Pink Floyd, The Pink Floyd. Fu allontanato dal gruppo nel 68 proprio a causa della sua grave infermità mentale e fisica, che è stata causata dal continuo abuso di droghe, in particolare era l'LSD, no Gianni? Che aveva comunque compromesso in modo molto esponenziale la sua partecipazione ai concerti e al lavoro in studio. Mentre se non mi sbaglio, Shine On Your Crazy Diamond fu dedicata proprio alla sua morte, è stata scritta per la sua morte, quindi sono notizie queste qui che fanno parte della storia di un gruppo che ha fatto la storia e che ancora oggi continua ad emozionare, così come ci diceva Sabina prima, che cantava con noi le canzoni scrivendole. E anche questa è radio, stavamo cantando effettivamente, anche noi, non so se si è sentito, ad alzare, sai, con le mani. Gli accendini ne teniamo soltanto uno, perché secondo me Gianni si è fatto il mio. No, non è vero, non sono io, non è colpa mia. Allora, io vorrei essere banale per un attimo, però a chi vuoi dedicare Wish You Were Here? No, non posso fare dediche. Assolutamente, la posso dedicare a tutti quelli che la sentono come pezzo proprio. La dedichiamo ai 2000, che cosa ne dici? Ai 2000 li ho dedicati. Ma che ne sanno? Come dice Frank. Frank, ci manchi. Questa la dedichiamo a te allora. Ancora, ciao Frank. Ancora con Anna. Ah, Frank, se passi, porta un caffè, perché ho dovuto comprare il kebab per ammortizzare un pochettino la fame di caffeina. Ma nel kebab c'è sta caffeina? Secondo me sì, un pochino. Wish You Were Here, Pink Floyd. Remains masterful. Yes, and neither would you, Derek, the star nonsense. Yeah. No, which is it? I'm sure of it. Walk on part in the wall. Eccoci ancora qui, e la cosa di cui parlavamo con Giovanni è che sicuramente chiunque abbia ascoltato questo pezzo in questo momento ha rivolto un pensiero ad una persona amata, ad una persona che avrebbe voluto in questo momento vicino a sé. E ricordando un pochettino i nostri inizi da musicisti, tra virgolette, perché poi la musica è una lama a doppio taglio, cioè croce e delizia, ti dà forti emozioni, però nella nostra zona, nella nostra situazione, non ti permette di viverci. Ricordavamo, o meglio ricordavo, quando gli allora gruppo locale Dead Moon suonarono questo pezzo nella congrega, una chiesa sconsacrata qui a Poggio Marino, e ricordavo con un sorriso stampato sulle labbra la performance di Frank, di cui parlavamo prima, di questo assolo in cui alcune note volarono via, altre invece si riuscirono ad incanalare verso questa magica atmosfera di questo pezzo. Ed è bello quello che la musica, a prescindere dai Pink Floyd, quindi mi distacco un attimino, quello che la musica ti riesce a trasmettere soltanto in quei pochi secondi in cui alcune note ti fanno rivivere delle situazioni passate, un pochettino come un profumo oppure un sapore. È quello che la musica riesce a fare, ti fa sentire i profumi, ti fa risentire i profumi, ti fa riassaporare i sapori. E a volte, sai, ci scappa pure la lacrimuccia, come in questo caso, Wish You Were Here, vorrei che tu fossi qui. Chiunque ha pensato a qualcuno che avrebbe voluto al suo fianco, no Gianni? Questa è una cosa di altissimo spessore, devo dire, perché veramente hai colto nel segno. Tutto merito del kebab, non del caffè, ricordate. Se volete portarci un caffè, vi ricordo che noi siamo qua a Via Roma, a Poggio Marino. Cercateci su Facebook cercando Ready Action Web Radio e su Spreaker cercando sempre Ready Action Web Radio. Seguite tutte le nostre rubriche, perché ovviamente non esiste solo Metal Zone, cioè per tutti i gusti. E Pasquale ha annunciato, tu, a proposito di emozioni e profumi, ci ricorda questa, ci dà questa chicca, questa cosa in esclusiva, perché ci dice che lui è un grande conoscitore dei Pink Floyd. In un'intervista di Gilmour lui dichiara che durante la registrazione di Shine on You Crazy Diamond si è presentato Barrett in studio dopo anni che non lo vedevano, purtroppo ovviamente per i suoi problemi. Essendo questo brano una dedica a lui, quello che viene poi definito pazzo diamante, Barrett, rimasero tutti senza parole a vederlo lì mentre loro lo stavano registrando. Ringraziamo veramente Pasquale. Questa è da brividi comunque. Sì. Io stavo un attimo nella sala di registrazione insieme Pasquale, a loro. Ma non è che puoi avvicinare, ci portano un caffè? Perché... Ma perché non ci porti un caffè? Ma io ho sbagliato tutto, capito? Dovevo accorgermene prima. Ma noi andiamo avanti, perché ovviamente dopo Shine on You, anzi, dopo Wish You Were Here, loro rilasciano Animals, un altro album che avrà un successo enorme, veramente enorme. Però voglio arrivare subito a quella che è l'era di Roger Waters, per la tua felicità. ci chiedevano di lanciare Comfortably Numb, che non ce la fanno più, perché quindi dobbiamo passare subito a The Wall, che è un album che, ragazzi, esce il 30 novembre del 1979, si piazza alla posizione numero 3 del Regno Unito, ancora più strano, però si piazza alla numero 1 degli Stati Uniti. Inoltre Another Brick in the Wall diventa l'unico singolo dei Pink Floyd a raggiungere la posizione numero 1 direttamente nelle classifiche. Quindi anche in Inghilterra, no? Sì, anche in Inghilterra. L'album però, purtroppo, ma viene definito all'87° posto dei migliori 500 album secondo la rivista Rolling Stone. Io non sono d'accordo, però no. Per me Rolling Stone ogni tanto gli 86. Spara delle cazzate enormi. Spero che in questi 86 non ci sia, che ne so, Anna Reti, Gigi. No, secondo me c'è, Justin Bieber sicuramente. Lasciamo perdere. Vabbè, ci andiamo ad ascoltare Another Brick in the Wall. E dopo magari lanciamo Comfortably Numb, la tanto attesa. Ok, tra poco con i Pink Floyd, Amon e Davide, Metal Zone. We don't need no education. We don't need no thought control. No alone. Perché giustamente è doveroso farlo. Sì, perché come tutte le canzoni che sono nell'album The Wall, Comfortably Numb racconta una parte della storia di Pink, che è il protagonista. Pink in pratica era completamente isolato dalla società e non riesce a sopportare la pressione di una vita da rockstar e ha un malore nella sua camera d'albergo. Immagina un pochino che storia, eh? Prima di un concerto. Cosa succede? Che un dottore viene mandato nella camera e fa un'iniezione a Pink, dandogli la forza di cui necessita per esibirsi, come se fosse veramente esattamente il suo ultimo concerto. Alle parole del medico, Pink risponde molto confusamente, ricordando momenti dell'infanzia, correlandoli alla situazione nella quale è precipitato, ma tutto in modo molto intorpidito ed abulico. Il testo è scritto come una conversazione con la voce di Waters per il dottore e quella di Gilmour per i Pink. Quindi vedi, alla fine in questo pezzo hanno accontentato entrambi, tu che sei uno che tira verso Waters, io che tiro verso Gilmour. Ci ascoltiamo questo pezzo e lo dedichiamo a tutti voi. If you can hear me, Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Smoke on the horizon. Comfortably Numb, piacevolmente intorpidito. Ormai ci siamo svelati tutto il testo, perché noi ce lo canticchiavamo e leggevamo la traduzione, cosa importantissima da fare secondo me per pezzi di questo calibro. Mi dispiace comunque deluderti, tu che tiri sempre verso Waters, ma da fonti certe sono venuto a conoscenza che questo è stato dichiarato uno degli assoli in assoluto più belli della storia del rock. Quindi Waters si può fare la valigia, come già aveva fatto poco prima, e può lasciare lo spazio a Gilmour, che sta subentrando proprio qui nel 1985 fino al 1995, proprio con la pubblicazione di alcuni album che tu adesso ci dirai un attimino. Perché mi devi far subire questa cosa? Io non lo so. Però vabbè, Waters, come ha detto Davide, se ne va, dice, ah sì, sai che c'è stato di nuovo, è più bello il tuo assolo, io me ne vado, anche perché poi c'erano stati anche screzzi con Wright, che era il bassista della band, quindi c'erano già delle cose che non andavano, Davide, c'erano secondo me. C'erano anche problemi col tastierista, infatti... C'erano troppi problemi. Proprio Waters si lamentava che il tastierista facesse troppo uso di cocaina, chissà come mai poi... da che cosa dipenderà questa dipendenza? Magari voleva salvarlo dalla fine che poi ha fatto Syd Barrett, nemmeno tanto puoi dargli torto, e non ce l'ha fatta. Invece subentra Gilmour col suo studio di registrazione di cui stavamo parlando poco fa mentre voi ascoltavate questo bellissimo pezzo. Eccolo qua, hai ragione, sì, una lunghissima... un palco galleggiante, eccolo qua, te l'ho detto, cioè in pratica Gilmour c'ha sto palco galleggiante, una sorta di barca di yacht, da fare invidia anche a Gianluca Vacchi. Gianluca Vacchi, non ti temo, quindi non ti teme nemmeno Gilmour, perché alla fine lui, oltre alle fregne, c'ha pure il suo studio di registrazione. E cosa mi dicevi? Suona così come se non esistesse un domani, dei pezzi è una difficoltà incredibile. No, ma è bello di questi gruppi, in questo caso dei Pink Floyd, vedere il cambiamento fisico che hanno questi grandissimi musicisti. Quindi io proprio l'altra sera, guardando questo speciale su Gilmour, ti ritrovavi sto vecchietto sui 60-70 anni rifacendomi a mio padre, quindi mi trovo mio padre davanti senza capelli, che c'ha sta fenderona in mano, sta Stratocaster, mi sembra che è tutta nera oppure rossa la sua, ma non voglio confondermi con quella di Mark Knopfler, che è bianca e rossa, e con una scioltezza degna del più grande Diego Armando Maradona, palleggiare, che ci faceva il suo spettacolino a San Paolo. Si spara questi assoli bellissimi ad occhi chiusi e automaticamente capita di chiuderli a sua volta anche noi, cioè li chiudiamo anche noi quando sentiamo Gilmour che si fa questi assoli. Li devi chiudere anche tu, perché Waters se n'è andato. Chiudiamo il discorso e diciamo che The Division Bell, però vedi, tutto questo estremismo di Gilmour si ripercuote nei suoi album, perché proprio The Division Bell è un album che si piazza sempre al numero 1, 20, 12, ormai ogni volta che esce qualcosa di Pink Floyd ha un successo incredibile, e praticamente parla del suo divorzio. Un pezzo che parla della prima comunione della figlia, no. È il primo, è il suo divorzio, perché lui era sposato con una donna, l'ex moglie Ginger, dopo 20 anni di matrimonio si lascia, e alla stesura di questo album, alla stesura dei testi, partecipa, guarda un po', Polly Samson, che era poi attualmente la sua fidanzata. Ma non è capitato, cioè non l'hanno voluta questa cosa. Io, secondo me, forse adesso sto capendo il perché del prezzo così elevato del concerto di Gilmour a Pompei, arrivato ad un certo punto. Concerto in cui, mannaggia, mi dovevo imbucare come elettricista e non ci sono riuscito, perché il biglietto veramente costava troppo, ne valeva la pena. L'ho cercato pure, sai, anche non avendo money all'attivo, l'ho cercato. Una mia amica si è pure attivata per trovarmelo, ma non c'è riuscita, quindi, e nemmeno come elettricista mi sono riuscita ad imbucare, quindi mi toccherà partecipare, entrare in questi 12 milioni, quindi siamo 11 milioni 999 mila, sì. Sarò il dodicesimo che comprerà l'album. Sì, comprerà, ovviamente, e ci andiamo ad ascoltare da questo album di Division Bell, Take It Back. Vi ricordo che loro sono sempre i Pink Floyd, e questo è ancora Metal Zone. Thank you. Take It Back. Riprendilo. Cosa dire di questo pezzo? Ci stiamo avviando, diciamo, verso la fine, la conclusione del cammino dei Pink Floyd. Cosa succede? È importante capire le cose che accadono nella storia di un gruppo, perché ci sono alcuni avvenimenti importantissimi. Quando, ad esempio, Waters e Pink Floyd si rincrociano di nuovo, dopo che Waters aveva comunque tentato la strada da solista, si rincrociano il 10 maggio del 2007 in occasione di un concerto organizzato proprio per la morte di Syd Barrett, che è avvenuta il 7 luglio del 2006, quindi dell'anno precedente. Però nonostante tutta l'attesa dei fan, i quattro non suonano insieme. Succede che Waters si esibisce solo nella prima parte dello show con John Kerin, eseguendo la sua Flickering Flame, brano che affronta molto il tema di un amico morto. I tre Floyd suonano subito dopo la vecchia Arnold Lane senza Waters, accompagnati dallo stesso Kerin e dal bassista degli Oasis, Andy Bell. Il motivo di tale scelta è molto semplice, perché non volevano assolutamente togliere la scena, distogliere l'attenzione dal protagonista della serata, ovvero Syd Barrett. Il 15 settembre del 2008, quindi più di un anno dopo, viene annunciata poi la morte di Richard Wright, che avviene a 65 anni dopo una breve lotta contro il cancro. Lo stesso Gilmour, parlando dell'amico Wright, dice queste testuali parole che vi leggo: «Nessuno può sostituire Richard Wright. È stato il mio partner musicale e amico. Nelle discussioni su chi o cosa fossero i Pink Floyd, il contributo enorme di Rick è stato spesso trascurato. Era gentile, modesto, riservato, ma la sua voce profonda e il suo modo di suonare erano vitali, magiche componenti del nostro riconoscibile sound. Non ho mai suonato con nessuno come lui. L'armonia delle nostre voci e la nostra telepatia musicale sono sbocciate nel 71 in Nietzsche's. A mio giudizio, tutti i più grandi momenti dei Pink Floyd sono quelli in cui lui è a pieno regime. Dopotutto, senza Us and Them and The Great Gig in the Sky, entrambe composte da lui, cosa sarebbe stato The Dark Side of the Moon? Senza il suo tocco pacato, l'album Wish You Were Here non avrebbe funzionato assolutamente. Nei nostri anni di mezzo, per vari motivi, lui ha perso la sua strada per qualche tempo, ma nei primi anni 90, con The Division Bell, di cui abbiamo ascoltato prima Take It Back, la sua vitalità, brillantezza e humor sono ritornati, e la reazione del pubblico alle sue apparizioni nel mio tour, è sempre Gilmour a parlare, nel mio tour del 2006 e negli anni 90 con Division Bell, la sua vitalità, brillantezza sono tremendamente incoraggianti, ed è un segno della sua modestia che quelle standing ovation siano giunte a lui come una grande sorpresa, sebbene non al resto di noi. Come Rick, non trovo facile esprimere i sentimenti con le parole, ma lo amavo e mi mancherà enormemente. Erano dichiarazioni di David Gilmour riguardo alla morte di Rick Wright. Ma il 10 luglio del 2010, dopo questa toccantissima proprio lettera aperta e di onore al suo amico e fondatore storico dei Pink Floyd, David Gilmour e Roger Waters decidono di tornare a suonare insieme. A distanza di dopo 5 anni dall'esibizione al Live 8, in cui faranno anche un altro CD, ovviamente faranno un sacco di live. Suonano al The Wall a Londra, suonano Comfortably Numb insieme a Waters. Waters ritorna a pieno titolo. E cosa succede? Succede che il 5 luglio del 2014, quindi recentissimo, 2 anni fa, Polly Sampson, che guarda un po', all'epoca di Division Bell era la fidanzata di Gilmour, diventa la moglie di Gilmour, annuncia attraverso Twitter che i Pink Floyd stanno per produrre un nuovo album. L'album si intitolerà The Endless River. sarà prodotto ovviamente da Gilmour. Sempre sulla barca galleggiante. Sì, sempre sulla barca galleggiante. E praticamente racchiude una serie di sessioni del 1994, non sono state mai pubblicate, un po' come è stato fatto con Kurt Cobain, con You Know You're Right, sì, insomma qualcosa postuma. Avviene proprio questa pubblicazione attraverso i vari social network. I Pink Floyd sono ufficialmente entrati nella generazione del social, perché hanno anche giustamente sfruttato queste nuove possibilità. E ci andiamo a sentire, siamo il loro 9 ottobre 2014, cioè. Possiamo dire che i 2000 ne sanno forse, no, non lo sanno lo stesso, no, secondo me, però vabbè, 14 anni, oh, però, oddio, uno può cominciare, no, lo stesso con i Pink Floyd, però dai, il ragazzino prodigio ci sarà pure, no? Sì, ovviamente, il loro singolo si chiamerà Louder Than Words. Però prima di passare a questo ultimo brano, perché veramente ci avviamo alla conclusione di questa rubrica, Davide, io ti voglio ringraziare veramente tantissimo, perché è la tua la prima esperienza radiofonica, ma veramente sei stato fenomenale, ti devo fare i complimenti. Ringrazio per questo svelginamento sì, radiofonico, è stato bellissimo, che hai avuto il piacere di fare. Mai nessuno aveva avuto questo, nemmeno Frank ha avuto questo piacere con me. Sono io che ti ringrazio per queste due ore passate assieme. Come ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti sia su Facebook che tramite Messenger e altri strumenti di comunicazione. Ci sono 60 persone all'ascolto in questo wow. momento. Noi li vogliamo salutare tutte, veramente vi voglio ringraziare tantissimo. Voglio ringraziarvi perché ci state seguendo, ci state dando un sacco di soddisfazione. Ci state dando un sacco di soddisfazione. E ancora il meglio deve ancora venire, ricordatelo. Ok, ripeto e ribadisco quello che stavo finendo prima che Giovanni mi mettesse la mano sulla gamba. Pardon. scherziamo. Quindi sono io che ringrazio voi per questa esperienza. E da quanto abbiamo detto prima con Gianni, forse sarà la prima di una lunga serie di collaborazioni in cui la musica è il nostro legante, il nostro comune denominatore. Magari la settimana prossima potremmo, che ne so, parlare di Guns N' Roses. Spinoffiamo di nuovo la settimana prossima? Spinoffiamo insieme? Ormai sono tua. Mi hai Vabbè, ti faccio sapere allora, okay. Ti tengo in lista, okay? Va benissimo. Ok. Ragazzi, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando a quest'ultimo pezzo che Gianni vi presenta. Louder Than Words, ragazzi, grazie, ringrazio la Prologo che ci ospita sempre. Rimanete con noi, stay tuned, rimanete con Radio Action e grazie per essere stati nella Metal Zone. Un buon ascolto, ciao.